Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Pardo, ciao! Come va? Sai cos'è questo che ti sto facendo ascoltare? No! Il matrimonio di Ronaldo. Lo sapevo, però ho parato per essere più radiofonico, no? Per un discorso di sceneggiatura. Incontinenza matrimoniale per l'ex fenomeno, quarto sì della carriera con la DJ Paola Morais. Che bello, questa poligamia è una cosa... Mentre c'è il solito Icardi affetto da incontinenza verbale. Comunque, curiosamente, Ronaldo si sposa nel giorno in cui la sua grande ex, l'Inter, insieme al Napoli, esce dal, perde la tappa e forse il Giro d'Italia del calcio. Curiosamente con lo stesso risultato, 3-3 in casa con una squadra della buona borghesia. Ma le analogie non finiscono qui. 17 gol subiti il Napoli, 17 l'Inter, sono in entrambi i casi molti. Io non ho mai pensato che l'Inter, ma nemmeno tu, che l'Inter fosse da corsa per lo scudetto, ma magari per il terzo posto sì, e adesso è a meno 4. Il Napoli invece aveva altre idee, che adesso stanno sopra di 8 punti, cioè il distacco del Napoli dalla Juventus. Curiosamente si scontrano nel prossimo turno. Tutto curioso, eh? Tutto curioso, sì. Tutto una sorta di intreccio di sliding doors domenica sera a San Paolo. Però mi sembra che insomma siano due crisi. Due crisette, diciamo, entrambe diverse fra di loro, perché secondo me il Napoli comunque era partito con un punto di partenza completamente diverso e superiore rispetto a quello dell'Inter. Però cioè, l'Inter si è un po' sgonfiata con tutti questi pareggi e con delle difficoltà difensive ieri abbastanza impressionanti. Il Napoli mi sembra che sia in crisi ormai da parecchio, ha subito 16 gol nelle ultime 8 partite, ha una difesa che, lo ripetiamo continuamente, continua a non essere all'altezza, forse anche un tipo di modulo che espone questa difesa a delle difficoltà particolari. Sì, è in atto il revisionismo delle idee di Benitez, che sembrava essere il nuovo mago di Napoli. Io continuo a pensare che sia l'allenatore ideale per quella piazza, però ci vuole un sacco di pazienza, un sacco di pratica e magari qualche giocatore in più. Toira ha detto che farà acquisti ma non deciderà da solo. Moratti ha detto che in questa serie di pareggi c'è anche la componente del passaggio societario, cioè Moratti ha detto stamattina che ha inciso un po' questo, il passaggio societario, in questo ammorbidimento dell'Inter. Ci credi? Ma sarebbe grave, insomma. Poi non so se è un modo, con una battuta potremmo dire che è un modo elegante per dire che Toir porta sfiga, ma è una battuta. Hai detto tu questa volta, no, non sono stato io. Ci mancherebbe altro, non è così. Io penso che in generale qui vale il discorso, stesso discorso che abbiamo fatto qualche giorno fa sulla Roma e i cinesi, cioè il calciatore essenzialmente si preoccupa prima di tutto se prende lo stipendio, come qualsiasi lavoratore, no? Anche se poi chiaramente uno stipendio magari un po' diverso sulle cifre, e poi dopo si preoccupa, quindi questo diciamo è il primo bisogno, quello primario. Poi subito sotto in questa piramide dei bisogni, secondo me c'è il futuro della società, insomma. Quindi se entrano nuovi investitori, di che cosa si dovrebbe preoccupare un giocatore? Cioè, no, questo non è che gli cambia l'allenatore o gli cambia la tattica o gli cambiano i compagni di squadra, eccetto ieri in tribuna. Quindi, cioè, a Milan cosa dovrebbero fare? Cioè, dovrebbero nemmeno scendere in campo. Comunque, Inter e Napoli, le bocciate di questo turno 8-0-0-24-0-0-24, naturalmente numero verde per voi. Poi l'altra faccia, la faccina che ride invece, e cioè le vincitrici di tappa sono ovviamente la solita Juventus, settima vittoria in fila, la Roma che ha giocato una meravigliosa partita, è stata bellissima ieri Roma-Fiorentina, e la Roma al contrario di quando non ne prende mai 5 in tutto il campionato fin qui. Poi ci sono Balotelli e Destro, che sono gli attaccanti che fanno sognare adesso Prandelli. L'Italia intera per Destro mi sembra un po' presto, per quell'altro vediamo. Mazzarri che si lamenta degli arbitri, ma cosa dovrebbero dire Colantuono con De Marco e Gasperini con Giacomelli ne hanno fatte ben di peggio. Insomma, un sacco di temi, vi aspettiamo dopo il traffico, io Pierluigi Pardo, gli ospiti che verranno, Franco Piantanida in redazione, Fabio Cantone in regia, 80024 0024 strade. Pronti? Iniziamo? Tutti convocati. Prontissimi, abbiamo già iniziato da un pezzo. Anzi, salutiamo Riccardo Ferri. Ciao Ricky. Ciao, buon pomeriggio. Ciao. Ciao a tutti, ciao Pierluigi. Ciao. Riccardo, io ti chiedo subito una valutazione sulla, insomma, anche sui singoli, sulla qualità difensiva dell'Inter e del Napoli. Stesso numero di gol, 17, mi sembra però che siano due storie un po' diverse. Sì, due storie un po' diverse, ma che per certi tratti si intrecciano, a mio avviso. Perché l'Inter, per esempio, ieri ha iniziato malissimo l'approccio alla gara, è andata in svantaggio prendendo questo gol di Sansone, poi ha reagito, poi nel secondo tempo ha avuto un approccio diverso. Però quello che le abbina, secondo me, Inter-Napoli sono proprio quella mancanza di saper gestire il risultato, saper gestire le situazioni durante la gara, sia in vantaggio che in svantaggio. Ma soprattutto quella fase difensiva che non dipende esclusivamente dai singoli, secondo me, della linea difensiva, ma proprio dall'atteggiamento della squadra, che non è capace a distribuirsi bene, a mettersi dietro la linea della palla e a imprimere un determinato pressing, un determinato atteggiamento che fa la differenza, che al giorno d'oggi fa la differenza tra le grandi e quelle che ancora lo devono diventare. Perché secondo te, lo chiedo anche a Pardo, anzi prima a Pardo, perché secondo te Mazzarri dice che i giocatori sentono la responsabilità? Ma quale responsabilità? Ma non lo so, anche perché poi la prima parte del lavoro di Mazzarri, che nella prima giornata aveva dichiarato di aver lavorato soprattutto sull'autostima dei giocatori, sulla cancellazione delle paure e dei complessi che erano venuti nell'ultima fase dello stramaccionismo l'anno scorso, sì, aveva funzionato tutto questo, no? Quindi dal punto di vista psicologico Mazzarri ha fatto un grandissimo lavoro. Secondo me, sinceramente, ci sono dei limiti strutturali di questa squadra che magari nelle prime giornate sono stati un po' nascosti da questo enorme entusiasmo, dalla differenza così prepotente fra il finale della stagione passata e l'inizio di questa. Poi pian piano stanno venendo fuori. E sicuramente è una crisi di crescita, sicuramente la squadra si è un po' bloccata, non ci sono dubbi. Ha cominciato a pareggiare delle partite, fatica nel vincere tutte le partite, anche quelle, sì, con le squadre di bassa classifica, e questo alla lunga logora e toglie punti. Sì, anche con squadre come il Parma, ottima squadra della buona borghese italiana, ieri ha segnato tre gol a San Siro praticamente senza Cassano, cioè senza il suo giocatore offensivamente più importante. Riccardo, chi prenderesti fossi Toir? Attaccante, centrocampisti, difensore, di cosa ha bisogno l'Inter? Allora, innanzitutto non ci sono giocatori che possono stravolgere una squadra in questo momento, soprattutto perché a gennaio non ho mai visto acquisti che poi hanno stravolto in maniera determinante l'andamento di una stagione. Io credo che in questo momento ti devi un po' adattare a quello che il mercato ti offre. Non è questo il mercato che deve fare l'Inter in questo momento. L'Inter, secondo me, deve programmare in maniera chirurgica a giugno, andare a inserire almeno un giocatore per reparto di grande qualità che porti a sgravare un attimino quelle tensioni che ci sono, perché sono dovute anche al fatto che comunque la squadra è molto giovane e soprattutto viene da una stagione quasi fallimentare, che è quella della passata stagione, sì, e forse certe responsabilità pesano un po' di più sulla testa di qualche ragazzo che non ha ancora il carisma e la capacità di gestire, insomma, salire quei gradini di San Siro non è un po' poi quindi da sei, tutti. Sei d'accordo con Mazzarri? Sì, un pochino sì, però non ci si deve nascondere dietro solamente a questi alibi. La squadra, come ha detto giustamente Pierluigi, manca un po' di qualità, dunque sicuramente quello che dicevi tu prima, Toir deve innanzitutto intervenire, ma non cercare di stravolgere completamente. Secondo me questa è una squadra che ha una... Sì, no, Riccardo, una stravolgere no, però dall'altra parte della città, l'anno scorso, a gennaio hanno preso Balotelli, che è stato determinante nella rincorsa al terzo posto. Potrebbe essere qualcosa di simile anche per l'Inter, cioè non stravolgere, ma il giocatore che può essere decisivo per raggiungere un certo risultato, e per l'Inter il terzo posto onestamente sarebbe il massimo della vita per questa Inter. Ma Balotelli ha contribuito, diciamo, in maniera importante, forte, al raggiungimento del terzo posto, però come vedi i problemi non si sono risolti, no? Cioè Balotelli da solo non riesce a prendere per mano il Milan, ci vuole una struttura intorno che faccia sì che Balotelli possa amplificare le proprie doti, no? e anche il Milan bene o male ha gli stessi problemi, no? Più o meno, no, più ne meno molti del, di più. Del Napoli, ecco, forse molti di più, però voglio dire, bisogna costruire la squadra, non la puoi costruire investendo solo dei soldi, ma investendo delle idee e mettendo un progetto ben preciso su quello che tu vuoi andare ad investire. Io credo che, l'ho detto più volte anche a Tiki Taka con Pardo, cioè secondo me la cosa principale che deve fare Torino è scegliersi una squadra di lavoro di grande livello intorno a sé, capace di programmare, capace di costruire qualcosa di importante, poi dopo a scendere è chiaro che il lavoro poi dopo ne beneficerà anche la squadra. Pierluigi, sei d'accordo? Sì, sono invece d'accordo. Immagini un innesto che potrebbe essere decisivo, allargo il discorso anche al Napoli, non so di cosa possa aver bisogno questo Napoli, secondo me di diverse cose, ma non so se gennaio è il contenitore giusto nemmeno per il Napoli. Beh, insomma, all'Inter, scusa, in questa prima parte della stagione è mancata una prima punta, cioè è mancato il Milito dei giorni d'oro, questo non va dimenticato. Insomma, spesso poi dietro le crisi, penso anche alla Lazio, no? A quello che sta succedendo alla Lazio, poi alla fine ti accorgi che l'ultima vittoria l'ha fatta con l'ultimo gol di Klose prima di farsi male. Insomma, poi delle volte il calcio è più semplice di quello che possiamo immaginare. No, io penso che all'Inter manchi assolutamente una prima punta, che non è facilissima da trovare, di grande livello, e credo che però, insomma, per il resto il lavoro di autostima di Mazzarri sia un lavoro ancora possibile. Insomma, la classifica è una classifica interessante, sì. Secondo me migliore di quello che si poteva immaginare all'inizio della stagione, però chiaramente con l'abbrivio delle prime giornate c'è un po' di delusione. Quindi io penso che Tohir, da quello che abbiamo capito, da quello che gli interologi ci hanno raccontato in queste settimane, difficilmente adesso farà voli pindarici sul mercato, magari farà un po' di autofinanziamento, venderà qualcuno e comprerà qualcun altro, insomma. Ranocchi, di autofinanziamento? L'autofinanziamento vuol dire che non c'è una lira, o comunque che non c'è voglia poi di la colletta ai cancelli? No, ma la colletta ai cancelli mettete no, un euro? Ma guarda, io penso una cosa, che sinceramente, al di là del fatto che ogni tifoso vorrebbe avere un presidente all'Abramovic dei tempi d'oro, no? Uno sceicco, sì, un emiro, appunto. Questi non ci sono, ecco, comunque sono no, pochi, allora, sono d'accordo. A quel punto diventa, visto che questo non c'è, a quel punto avere dei progetti invece un pochino logici diventa una cosa che deve far felici i tifosi. Cioè io penso che i tifosi della Roma sicuramente avrebbero voluto la parte di Pallotta, degli investimenti un pochino più profondi nei primi due anni, però alla fine oggi forse possono riconoscere. No, sicuramente no. Ha costruito, ha sbagliato diversi allenatori, poi alla fine no, ha trovato quello giusto. Ma essere felici del fatto che hanno un presidente che non vuole buttare via i soldi, perché in prospettiva è meglio quello, secondo me, piuttosto che avere situazioni tipo il Malaga, no? di presidenti che arrivano e promettono l'impossibile, fanno dei grandissimi acquisti e poi dopo due anni sono in difficoltà. Però per c'era cui... anche una via di mezzo, Pier, cioè tra questa tattica così sparagnina e comunque un presidente dell'Inter, l'Inter insomma non è il Malaga, che arriva, due noccioline le mette e porta a casa almeno un giocatore da regalare. No, certo, da regalare la torsida, mi sembra farà, giusto. Farà, adesso vediamo. Riccardo Ferri, la Roma ce la fa a stare lì, secondo te? Ma la Roma sta soffrendo un po' questo strapotere della Juve in questo momento, e non solo la Roma, ma anche le squadre che abbiamo citato prima. Io credo che la Juve abbia dimostrato, a differenza della Roma che sta facendo un campionato straordinario, di avere una rosa XL. Una rosa che le permette di cambiamenti e di dare la possibilità di crescere a giocatori che magari all'inizio non erano considerati magari da Juve, e vedi Llorente per esempio. Io ero uno di quelli che lo vedevo chiaramente in ritardo, fuori dai ritmi della Juve e via dicendo. Invece Conte ci ha creduto e ha avuto ragione, e qua devo fare mea culpa, perché veramente ho visto veramente male. Questo è un giocatore che si è integrato con un po' di difficoltà, ma si è integrato in maniera incredibile, sì, nella fase offensiva della Juve. La Roma ha sicuramente dalla sua la capacità di mantenere certi ritmi, ma però in questo momento la squadra che sta dando i suoi frutti è una squadra composta da 18-20 giocatori di grandissimo livello. La Roma in questo momento, nell'Inter, nella Fiorentina, non ce l'hanno, e neanche il Milan, e quindi questo gap, secondo me, pian piano, durante il cammino di questo campionato, sarà sempre più evidente. Grazie Ricky. Grazie, ciao, grazie a voi, buon lavoro. Grazie Riccardo Ferri, tu stai lì, Pierluigi. Anche perché c'è Michele che dissente da te. Sì, oggi dissento dal mio idolo Pardo, scrive un SMS. a Inter e Napoli servono difensori di qualità e non attaccanti. Ranocchia, San Siro al terrore negli occhi. Britos e Rolando sono impresentabili in Serie A, gli altri sono peggio. Sul Napoli d'accordo, dato giù piano. Devo fermarmi? Sì. C'è la borsa. Lo so, però volevo vedere se riuscivo a parlare con Alessandro della provincia di Siena, che invece ascolterà. Possiamo farlo, Alessandro. Vai, così lo teniamo in linea. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Ah, perfetto. Dunque, io volevo porvi una domanda semplice, da intenditore di calcio, quale siamo un po' tutti in Italia. Come giudicate il campionato della Fiorentina prima della partita con la Juve e dopo? Perché purtroppo la Fiorentina può cambiare allenatori, può cambiare la società, ha avuto fior di industriali e fior di allenatori, ma purtroppo anche quest'anno la Fiorentina ha già vinto il suo campionato, ha vinto con la Juve e ha tirato i remi in barca, la tifoseria è già contenta. Lei e dice. Tutto va bene. Io vorrei sapere che cosa ne pensate, perché Firenze si merita questa tifoseria e si merita questa fine. Grazie. Ma no, ma mi sembrano toni un po' troppo disfattistici. Sì, mentre c'è Pier, ti dico che c'è Sara che invece vorrebbe bocciare appunto la Fiorentina perché Montella non fa mai autocritica. Ne parliamo di tutto questo, torniamo su questi argomenti con Pierluigi Pardo dopo la borsa. Tutti convocati. Siete ragazzi, 800240024, vi aspettiamo, come ogni giorno. Siete tutti convocati. Ma proprio tutti. Mourinho superstar perfino quando fa finta, come nello spot che abbiamo sentito prima. Che spettacolo. Poi ti chiedo anche una cosa su Cassano, che tutti erano pronti a scommettere all'Inter e a Mazzarri gliene fa tre. Invece ieri non pervenuto, aveva dei problemi con la maschera di Zorro, però vabbè, te lo chiedo dopo. Sulla Fiorentina invece, per completare questo discorso, o se volete per riaprirlo, come vi pare, 800240024, c'è Gigi D'Alecco che scrive: ha ragione quello da Pisa, che poi era non era da Pisa ma da Siena. La Fiorentina ha vinto con la Juve ed è 13 punti dietro. Si è un po' sgonfiata dopo quella partita? La Fiorentina non si è mai gonfiata, cioè si è gonfiata e sgonfiata. Io guarda, adesso prendo il calendario perché sennò non so di che stiamo parlando. Quello dell'avvento? No, quello del campionato, una cosa. Quello di Frate Indovino? No, quello della Fico? No, prendo il calendario. Quello dei calendari c'è. Prandelli ha detto: io non mi sono mai sognato di chiedere a Beretta di modificare le date del campionato. Avete fatto tutto da soli. Beretta aveva detto: il campionato è immodificabile. Dopo sì, ne parliamo. Sì, dimmi, da noi ieri sera. Hai trovato il calendario? Scusa? Hai trovato il calendario? Sì, ho qui il calendario davanti a me. Okay. E non mi sembra che, insomma, la Fiorentina, il punto è che tutte le volte che deve decollare definitivamente poi ha un momento di panico, nel senso che dopo Fiorentina-Juve la Fiorentina vince a Verona, perde in casa col Napoli in mezzo a tante polemiche, vince a Milano contro il Milan, vince in casa contro la Samp, poi perde a Udine, poi vince col Verona e poi perde con la Roma. Io credo che la sua dimensione sia questa. Io penso che, no, lo dico non per contestare l'amico ascoltatore, io non ho visto, io credo che se andiamo a vedere statisticamente il calendario della Fiorentina fino a questo momento è un calendario irregolare, ma continuamente irregolare, cioè non c'è un prima e un dopo, almeno io non lo vedo. Nelle prime giornate qualche punto buttato via, poi che dal punto di vista ambientale quel pomeriggio lì abbia cambiato tutto, questo è evidente, ma secondo me una squadra è cambiata dopo Fiorentina-Juve, non è la Fiorentina. La Juventus che ne ha messe sette in fila, no, ma è chiaro, questo è fin troppo evidente. Secondo me la Fiorentina è dove deve stare, poi è vero che guardi dietro e vedi il Verona che è a due punti in meno, ma è il Verona che sta facendo un campionato super. Secondo me la Fiorentina ha questa dimensione. Carlo, cioè, secondo me è un pregiudizio estetico positivo nei confronti della Fiorentina, che io condivido, nel senso che a me piace come gioca, è una squadra che l'anno scorso ha vinto il premio della critica, che quest'anno magari è un pochino meno bella da questo punto di vista, ma è sempre comunque una squadra che quando gioca bene, gioca molto bene. Quindi delle volte, queste due categorie dello spirito e della vita, cioè l'efficacia e la bellezza, vengono poi equivocate e un po' scambiate. La Fiorentina è più bella che forte, secondo me. Sì, poi è anche vero che Montella non fa mai autocritica, e qui ha ragione Sara. È anche vero che al capocannoniere del campionato c'è Giuseppe Rossi. È anche vero che Mario Gomez è ancora fuori. Il mistero Gomez domanda qualcuno. Sono vere un sacco di cose, però la dimensione della Fiorentina, hai ragione tu. esteticamente molto bella, ma la sua dimensione secondo me è quella. Detto questo, può arrivare terza, eh? Può arrivare terza. Io sì, cioè, non credo che se arriva terza è un'impresa. Se arriva terza è un'impresa, perché io, nonostante tutto, penso che il Napoli sia ancora più forte, probabilmente anche l'Inter è più solida. Gianfranco Napoli, ce la fate? Pronto? Ce la fate a battere? Non credo, eh? A battere, a segnare, dare tre gol di distacco all'Arsenal, che poi il Napoli dovrà segnare 8, perché 5 li prende. Allora, questa è un'ipotesi. Non risponda alle provocazioni. No. Che provocazione? No, io spero più in un colpo di coda del Marsiglia. Del Marsiglia? Ha ragione. Che faccia. Io non ci credo. Che non chiuda il girone a zero. Non ci credo, perché dall'altra parte non c'è una squadretta, non c'è neanche una squadra particolarmente umorale come la Fiorentina, cioè però c'è voglio dire d'Europa. Genta, dica. Io capisco, tu dici allora 3-0 non ci credi. Allora che fa uno? Secondo me noi spesso applichiamo alle coppe europee le abitudini del calcio italiano, per cui squadra senza motivazioni perde sicuro. Non è detto. Quindi soprattutto in casa potrebbe fare risultato. È difficile, certo, e Napoli deve essere pronto a approfittarne. Scusate, io ho interrotto l'ascoltatore. Gianfranco? No, allora, sì, no, io quello che volevo dire che non mi sembra che i giudizi sul Napoli adesso siano equilibrati. No. Noi abbiamo un momento sicuramente di appannamento di forma, legato anche all'assenza di Hamsik e Zuniga, e gli infortuni che abbiamo avuto sugli esterni, che sono fondamentali nel modulo di Benitez. E quindi stiamo soffrendo tanto. Sì, però ne beccate un sacco, onestamente. Però ne beccate un sacco di gol, onestamente, al di là dell'infortunio. Sì, ma i gol di domenica sono legati proprio a errori stupidissimi, anche assenza forse di concentrazione. Ho capito. C'è non, sempre cioè, un errore non legati, cioè giocatori che prima certi errori non facevano, oggi li fanno. Secondo me sono un po' più patologici che occasionali, ma comunque insomma, il secondo gol dell'Udinese nasce da una palla persa da Hiller, banalissima, mentre stiamo ripartendo. Da lì poi questo è vero, ma siamo a un episodio. Il quadro complessivo dice che, al di là dell'errore di Inter, il Napoli subisce un po' troppo, per essere dov'è, al terzo posto, ancora in corsa in Europa, e ci crediamo, ci contiamo, ci speriamo, eccetera. Dico che in valore assoluto, se l'obiettivo era quello di vincere lo scudetto, questa squadra non ce la può fare, e probabilmente anche già fuori dalla corsa, perché rimontare 8 punti alla Juventus secondo me è fantascienza. Giuseppe, Reggio Emilia. Sì, salve. Salve. Volevo fare i complimenti al mio Toro, perché è settimo. Sì. E ha un bellissimo allenatore, Ventura, che è proprio un signore del calcio. È elegante anche nei modi di parlare, mai oltre le righe. È un furbacchione, grande allenatore, furbacchione. Io ho provato a far promettere a Cairo di rinnovargli, di fargli un contratto lungo, ma non l'ha promesso. Sarebbe una bella cosa. Lui e anche D'Ambrosio, perché sì, si è creato un bel gruppo quest'anno, è rimasto Cerci, abbiamo preso Immobile e credo che ci toglieremo delle belle soddisfazioni. Sì. Sono proprio sicuro, sì. Sì, beh, già un buon Natale mi pare andrà a passare il Torino. Dall'altra parte c'era invece la Lazio, Pierluigi Pardo, che l'allenatore secondo me lo cambia, è andato tempo fino a Natale, ma arriva lì non di più Petkovic, troppo delegittimato. Ma io ti dico la verità, penso che Klose pesi tanto come assenza. Ma come no? Klose è un giocatore meraviglioso, è un giocatore che questi anni ha, non voglio dire sia stato il 50% della Lazio, però insomma 45 dai. Sì, ha avuto dei valori diversi da quelli che abbiamo visto ieri, anche Candreva ha avuto dei momenti migliori rispetto a quelli che abbiamo visto ieri. Oggi la Lazio è una delle tante. Ieri, secondo me, nel secondo tempo poteva anche pareggiare, perché qualche occasione l'ha creata, ma è una delle, cioè è un risultato che ci sta, è un risultato che ci sta. Poi il Torino, diciamo la verità, che già ha lasciato parecchi punti nella prima parte della stagione per episodi vari e quindi meriterebbe qualcosa di più. Ma insomma, io credo che sicuramente ci può essere un effetto Petkovic. Sappiamo che tutte le volte che l'allenatore ha un contratto con un'altra nazionale, con un'altra squadra, questo inconsciamente abbassa il livello di attenzione dei calciatori. Non sarebbe né la prima né l'ultima volta che succede. Non è chiaro perché, ma è così. Eh sì, beh, ma perché è l'animo umano, perché è l'animo umano, perché ma, se tu stasera ricevi un invito da, non so, Scarlett Johansson, o ricevi un invito da tua cugina, probabilmente hai un, non so se questo esempio è molto calzante, però insomma credo che la natura umana insomma percepisca mia, mia cugina un'altra volta, in questo caso con tutto l'amore per tua cugina il un'altra volta no, però insomma è una, anche questa è una caratteristica abbastanza tipicamente italiana, in altri, in altri posti, in altri paesi, in altri, ma anche no, in altri sport dire, questo accade di meno, no, secondo me no, perché alla fine, voglio dire, questa fa parte dell'animo umano, cioè se tu comunque hai un allenatore che... Che ha scadenza, che ha fine scadenza, mandato, che è esautorato, che basta chiedere al Milan, no? Cioè, è difficile, cioè, secondo me anche nei posti di lavoro può succedere questa cosa qui, poi ovviamente, insomma, nel calcio i dettagli sono, sono il sale di tutto. Ma infatti, ma per quello che dico che insomma il Milan, Allegri lo doveva... sostituire nel momento in cui si sono aperte tutte queste contestazioni, queste diatribe societarie, insomma è chiaro che l'allenatore a termine, a scadenza, sfiduciato dalla società, non ha mai, soprattutto le nostre parti, presa sui giocatori. Ma prima del traffico, dimmi di Cassano. Ma insomma a me non è sembrata, è stato un po' condizionato da questa mascherina, è uscito, si è tolto la mascherina dopo 1:40 1:40 mi piaceva molto, l'avevo sentito per la settimana, non mi sembrava convintissimo, diciamo, ho avuto le prove dopo 100 secondi, ma a me non è dispiaciuto sinceramente, certo non è stata una partita nella quale ha lasciato particolarmente il segno, però io un po' di giocare di qualità le ho viste sempre, certamente rispetto alle due partite precedenti, quella col Napoli e quella col Bologna, un passo indietro, non ci sono dubbi. A Parma ieri ha giocato molto bene come squadra. No, ma gioca molto bene. Paradossalmente non ha neanche avuto così tanto bisogno delle genialate di Cassano, perché poi comunque alla fine c'erano anche grandi spazi di manovra, che secondo me è l'aspetto un po' più inquietante dell'Inter di Mazzarri ieri sera. Boris Sollazzo, buongiorno. Buongiorno a voi. Boris Sollazzo, non per parlare di cinema come spesso accade, ma per parlare di Napoli, subito dopo il traffico, ovviamente... Non so se Piantanida ha recuperato il quiz di oggi per Sollazzo, ce l'abbiamo? Non ce l'abbiamo? Cartellino giallo, strade. Tutti convocati. Allora, dato che io sono perfido, il quiz per Boris Sollazzo invece ce l'abbiamo. Lui si è rilassato durante il traffico e invece noi i quiz lo facciamo. Cos'è questo? Il calcio ha significato troppo per me e continua a significare troppe cose. Dopo un po' ti si mescola tutto in testa e non riesci più a capire se la vita è una merda perché l'Arsenal fa schifo o viceversa. Sono andato a vedere troppe partite, ho speso troppi soldi, mi sono incazzato per l'Arsenal quando avrei dovuto incazzarmi per altre cose, ho preteso troppo dalla gente che amo. Ok, va bene tutto. Vabbè, Boris Sollazzo, facile, dai. Beh, facilissimo, soprattutto perché tu che hai letto il mio libro Che vi siete persi, sai che ho rubato questo monologo per volgerlo alla napoletanità, quindi febbre a 90, ma è un capolavoro assoluto, insomma, per noi amanti del calcio, veramente... Della letteratura più che della cinematografia. Per me è un colpo basso questo, eh? Sì, no, verissimo, che è meglio la letteratura, però posso dire che quel film, nella sua semplicità, è uno dei pochi che ha saputo raccontare la passione per il calcio. Questo è vero. La scena finale è una delle più commoventi della storia del cinema. Soprattutto con quell'attore e con quella storia, con quella, come dire, risalita per la rampa delle scale, che secondo me rappresenta moltissimo di tutti i tifosi, perché poi il dramma sportivo, tra virgolette, del calcio è che a volte gli dai troppo spazio e dimentichi le cose importanti, però forse alla fine quello è un sentimento che è così forte che in qualche modo è importante alla stessa maniera, e là lo racconta bene, cioè è un uomo che razionalizza il suo sentimento ma non riesce comunque a vincerlo. Ma scusa, ma anche tu hai come Colin Firth i boxer del Napoli? Lui c'era dell'altro. Allora, guarda, questo è un colpo bassissimo, però sì, lo ammetto. Ho anche quelli, sì, ho anche quelli. Ma io guarda, sto facendo delle presentazioni in giro per l'Italia del libro, sì. E ho deciso di fare una cosa tipo autocoscienza, cioè ho portato una busta in cui ci sono tutti i gadget più ignobili che io ho comprato nel corso degli anni, e c'è una specie di cilindro, un recipiente cilindrico a forma di Paolo Cannavaro, che è una delle cose più brutte che si siano mai viste. E sì, insomma, non faccio fatica a crederlo. E in confronto i boxer del Napoli hanno anche una loro eleganza. Posso dire una cosa in 28 secondi? Dilla. Quel libro lì ha cambiato, noi chiamiamo il calcio, e che per questo non ci sentiamo, cito il libro necessariamente delle persone con problemi particolari o senza neuroni, eccetera. Noi chiamiamo questo gioco, dobbiamo dire veramente grazie a quel libro. Il libro ha cambiato in Inghilterra e poi in Europa la percezione del calcio come fenomeno culturale, ovviamente pop, non quelle cose di nicchia che fanno l'1% d'ascolto e fanno per, da salotti di intellettuali, ma di cultura vera, profonda, che unisce le generazioni, che unisce i padri con i figli. Quel film e quel libro prima hanno, secondo me, cambiato completamente la percezione del calcio, e da quel libro in poi sono nati poi filoni successivi. Sì. Secondo me l'hanno cambiata soprattutto da parte delle signore, cioè il libro perfetto da regalare alle vostre signore quando dovete far capire loro che cosa il calcio può rappresentare per qualcuno. Ma quello che devo dire è un grande pregio di Hornby in generale, perché l'ho fatto anche con la musica e con Alta Fedeltà, cioè lui riesce a sdoganare quelle passioni che sembrano totalmente maschili o totalmente folli, il fatto di andare ai concerti come andare negli stadi e raccontarli in modo che siano accettabili socialmente. Senti, Boris Sollazzo, non te la no, beh, adesso aspetta, perché Sollazzo, sai Napoli Arsa, ma stiamo parlando di sempre a 90 di vabbè, ho capito. No, vabbè, scusate. C'è Napoli Arsenal e io voglio sentire Boris Sollazzo. Napoli Arsenal 3-0, sul Napoli passa il turno successivo, ci dispiace per Ordi. Sullo 0 dell'Arsenal 5-2, dai. 5-2. 8-5. Beh, io direi che l'unica speranza che ha il Napoli è di vincere la 7-4, perché 7-4. Se abbiamo presi 3 con l'Udinese, almeno 4 con l'Arsenal dobbiamo farli. Vedi Pardo, è più realista di te. Ma io però guarda che devo dire che poi il San Paolo da champion è qualcos'altro, nel senso che poi contro una squadra come il Borussia Dortmund noi siamo riusciti a segnarci solo da soli. La verità è che poi cambia anche il livello di concentrazione. Il punto secondo me è un altro. Uno, come ho pure scritto sul sito dove sfogo la mia napoletanità, Extra Napoli, basta prendersela con Benitez, perché è un allenatore che ha fatto 11 punti in più di Mazzarri, e Mazzarri aveva Cavani, Lavezzi. Bravo, sono d'accordo, sono d'accordo. Da un anno, e che ne ha fatto solo uno in meno rispetto all'anno scorso, in cui Mazzarri faceva fare figure barbine in tutta Europa. Quindi, senza nulla togliere a Mazzarri, che per me rimarrà sempre il miglior allenatore dopo Benitez, che è stato a Napoli. Però quello che dico io è che in questo momento ci sono 2-3-3 che spiegano molto bene quali sono i problemi di due squadre. Cioè, entrambe le squadre manca Hamsik. Al Napoli manca Hamsik e ha cominciato a prendere più gol di partite giocate. E alla stessa Inter manca Hamsik, perché sì, Boris, sono stato d'accordo con te fin qui. Io ho l'impressione invece che Hamsik comincio a pensare sia un po' sopravvalutato. Invece secondo me è sottovalutato, perché il suo problema è che segnando così tanto le persone pensano alla sua fase offensiva, ma la grandezza di Hamsik sta nell'essere capace di fare fase difensiva e fase offensiva. Lui magari perde palloni, però dà un equilibrio che in questo momento non a caso manca a tutti e due i giocatori. Mazzarri, che era il re della fase difensiva, ieri ha fatto delle cose ridicole, e non è la prima volta che gli succede, e diciamolo, sicuramente non sono peggiori i Juan Jesus, Ranocchia, Campagnaro dei Cannavaro e Grava che aveva a Napoli. Però a Napoli aveva Hamsik, che è un metronomo, che è il Pogba, il Pirlo. Poi c'è aspetta un attimo, Pogba e Pirlo, cioè io comincio invece a pensare, Boris, poi sento Pierre, comincio a pensare che Hamsik sia la vera misura del Napoli, cioè un giocatore che arriva lì ma più su non va. Cosa dici tu, Pierre? Scusa, mi ero distratto un secondo. E che stai facendo? Sei ancora col calendario? No, un messaggio hai cambiato calendario? No, mi era un messaggio dello zio. No, facciamo outing. Un messaggio dello zio Bergomi, che sta sentendo, perché si sente tutti i giorni. E quindi, scusa, poi massima interattività. Lo salutiamo, lo zio. Ecco. Massimo, cosa scrive? Scrive, no, mi ha detto chi è che ha giocato, ma non ho capito a cosa si riferisce. Ah, vabbè, allora adesso mi risponderà. Gli ho risposto chi? Dicevi? Sollazzo diceva Hamsik, il giocatore cardine. Ero più concentrato di quello. Sì. Io comincio invece a pensare che sia un pelo sopravvalutato. No, io penso che sia. Ho sentito Boris, giuro che sono bollito fino a un certo punto. No, io non so se la fase difensiva di Hamsik, certo, indubbiamente queste ultime uscite sembrerebbero dimostrare questo. Io penso che Hamsik sia un giocatore non particolarmente costante come rendimento, che ha una straordinaria capacità di inserimento e delle doti da attaccante. Io però posso dire una cosa. La sua vera forza è che è un centrocampista e segna come un attaccante. Questo Boris. Io parlo di equilibrio, io parlo di equilibrio che dà la squadra. Io inviterei a vedere le partite del Napoli, io lo faccio insomma per passione, degli ultimi 4-5 anni. Ci sono dei giocatori che sono stati costretti a fare di fatto due ruoli, e Hamsik è sicuramente uno di quelli, nel senso che Hamsik è stato deprezzato, sottovalutato, perché la sua forza, la sua tecnica, la sua capacità di incidere sulle partite poggia su una squadra che lui si deve prendere sulle spalle, quando invece meriterebbe di essere preso lui sulle spalle. Il problema è quello, ma io faccio sempre questa, secondo me il giocatore è forte, il campione si vede nel momento in cui non c'è. Totti, nel momento in cui non c'è nella Roma, si vede quanto è importante anche nell'equilibrio tattico. Cervinio diventa un giocatore normale, tranne ieri che ha fatto una partita straordinaria. Hamsik, nel momento in cui non gioca, tu dici il Napoli lo senti tanto. Sì, no, ma questo che sia importante non c'è dubbio. Quello che dico io è che mi sembra il giocatore a cui manca sempre il passo per diventare fuori classe. Grazie Boris Sollazzo. Ciao Boris. Pierluigi Pardo, grazie. Saluto lo zio Bergomi, ci siamo risposti. Salutiamo domani mi dici cosa vi siete scritti, magari stasera Tiki Taka. GR, poi torniamo insieme ancora con tutti i convocati. Tutti convocati. Buongiorno, Jim Pallotta from Boston. Do you intend to spend the entire game on the sideline? Non c'è una domanda su i cinese, sullo stadio? Perché così il mio presidente è qui, è il vostro interlocutore. Grazie James. Questo era il siparietto di Salto. Abbiamo scoperto Pallotta cabarettista. Si è nascosto in mezzo ai giornalisti, nascosto, per modo di dire, tra i giornalisti alla conferenza stampa di sabato di Garcia, e I'm James Pallotta from Boston. Avete sentito, no? Tra l'altro, a proposito di stadio, su cui Garcia aveva sollecitato domande, questa mattina Pallotta è andato a prendere un caffè con Marino, sindaco di Roma. Poi è uscito e ha detto: abbiamo preso un caffè, abbiamo parlato dello stadio, siamo sulla strada giusta, c'è tanto da lavorare, siamo tutti ottimisti, è un progetto estremamente eccitante. A proposito, sapete, vi state preparando nei curiosi intrecci dello sport al derby tra presidenti italiani nell'NBA? Sapete di cosa sto parlando, no? Sapete che Tohir è nella proprietà dei Philadelphia 76ers, così come James Pallotta è uno dei proprietari dei Boston Celtics. Quindi derby italiano negli Stati Uniti, nell'NBA. A proposito di NBA, sempre, la squadra di Pallotta, cioè i Celtics, hanno distrutto ieri sera New York al Madison Square Garden, partita che ho anche visto almeno per un pezzo, perché sinceramente è finita dopo un minuto e mezzo. Asfaltati completamente i New York Knicks di Bargnani, è finita 114-73. Nella notte è tornato invece uno dei più grandi di sempre, cioè Kobe Bryant, con i suoi Lakers. Era fuori dal 12 aprile, si era rotto il tendine d'Achille, ieri è tornato. Kobe is back, ma i Lakers hanno perso 106-94 con i Toronto Raptors. Per Bargnani, per Kobe Bryant, 9 punti, 8 rimbalzi, 4 assist. Sentiamo allora Bargnani e poi il primo canestro di Kobe al ritorno. Sì, diciamo che dopo due partite ottime oggi siamo andati veramente male. Diciamo che l'attacco è stato completamente fuori ritmo il primo quarto. Tutti e 5 i giocatori del quintetto erano fuori ritmo. Non siamo riusciti a mettere un canestro, abbiamo lasciato il nostro attacco influenzare la difesa e quindi la difesa è diventata anche lei molto negativa. Quindi sì, come hai detto, non c'è molto da dire, è una sconfitta netta. E yeah, the confidence in his mind is what his body can do. Into Powell, back to Kobe, a little two-man game. Kobe creating some space, two pump fakes with the left hand. That's his first field goal. That young man, the defender was sitting on his right side a little bit. So what's he do? I talked about all that. He is really an intelligent player. Ero completamente fuori ritmo, ma è un inizio, e un inizio è una buona cosa. Devo solo ritrovare le mie gambe e riadattarmi al gioco. L'ultima volta che ho avuto 8 mesi di riposo ero ancora nel ventre di mia madre, ha detto Kobe Bryant. Giulio Milano, buongiorno. 800-24-0024, siamo qui, siamo qui per voi. Grazie di avermi convocato. Grazie di aver risposto. Anche tre. Due cosette solamente. Innanzitutto, come sono tifoso interista da quando tantissimi anni, ma come quest'anno il signor Mazzarri, cioè, una squadra come l'Inter non può non giocare senza un centravanti. Non possiamo sempre appellarci che il signor Palacio ha ragione, presidente uova fuori dalle cavagne, che, guarda, io e quant'altro. Posso dirle, Giulio, su Palacio, Palacio mi ha tutta la mia ammirazione. Lo vedi là davanti, piccolino, lotta come un leone, segna, ieri sera ha fatto un bellissimo gol di testa, da tutto, e si trova lì nel deserto. Però, Giulio, a chi fa giocare quella... non mi viene un aggettivo. Abbiamo che sia Belfodil, ma almeno, no, vabbè, Belfodil, niente, come si dice, piuttosto che niente, meglio piuttosto, lei Icardi dice. No, quello lì non mi viene un aggettivo per definire Icardi, o almeno non me ne viene uno riferibile per radio, dica. Ma poi un'altra cosa, la difesa è una cosa oscena, cioè il colapasta di casa mia perde sicuramente meglio, perde meno di sicuro, perché non so come ti faccio a far giocare la notte. Quello va bene a fare i fotoromantici, il fotomodello. Juan Jesus va bene a fare un secondino a San Vittore, 5 minuti, sono tutti in festa. Ma lei è Giulio, o è Giacomo di Aldo Giovanni e Giacomo? Dica la verità. No. Io sono un interista, come si dice in gergo, doc. Sono tantissimi anni che sono abbonato, sì. Ma come quest'anno, deluso mai. Nemmeno l'anno scorso. No, anche l'anno scorso. Ah, non beh, si può una società come l'Inter arrivare a questi... Cioè, una squadra che segna 3 gol... alla grandi linee dovrebbe vincere la partita. Noi abbiamo rischiato di perdere la partita. Mi sai cosa voglio dire? La squadra che segna 3 gol vince la partita. Anche Napoli ha segnato 3 gol, con un meraviglioso Udinese, come voi avete giocato contro un eccellente Parma. Non è detto però che... Però c'è da dire anche una cosa, cioè a sfavore cioè il Napoli è una società, è una squadra dove ha preso tutti, diciamo, gli scarti del Real Madrid, perché l'altro aspetti, faccia bravo, Higuain scarto mi sembra tanta roba. No, io parlo dei difensori che ha preso il Napoli. Ha preso Albiol, ma pagandolo come vero, cioè 15 milioni mica poco. Non è certamente un fenomeno, come non è un fenomeno Juan Jesus. Su Ranocchia non so cosa dire, ma è un giocatore che è sempre piaciuto abbastanza, probabilmente un po' troppo morbido, però non la vedo così brutta come lei la dipinge la storia. È vero in parte quanto lei dice, però è anche vero quanto abbiamo detto molte volte: sono stati restituiti al calcio, magari regalati al calcio a un certo livello, giocatori come Jonathan, lei lo sa benissimo, come Ricky Alvarez, eccetera eccetera, perché tra i meriti di Mazzarri c'è anche la così rivitalizzazione di questi giocatori onestamente mai visti nella loro incarnazione interista. Alberto? Pronto. Buongiorno. Ringrazio e complimenti per la trasmissione. Io ringrazio, grazie. Io volevo solo dire questo: come si può fare a non capire, ormai sono anni che la difesa del Napoli fa acqua da tutte le parti. È successo con Mazzarri, mi sembra di aver capito. Sta succedendo con Benitez. Si spendono soldi per l'attacco, qualcosa per il centrocampo, per la difesa mai. Si è comprato Albiol quest'anno, 15, che è quello che è 15 milioni, non mi sembrano pochi. Sì, non sono pochi, però si doveva comprare anche qualche altra cosa, perché il problema è sempre la difesa, è solo quello secondo me, perché di gol ne sono stati fatti quest'anno, ne sono stati fatti gli anni passati, ma la difesa è sempre stato il punto negativo. Io non capisco se ci sono problemi di immagine, nel senso del problema dei diritti di immagine. Dice questioni cinematografiche, cioè il Napoli vuole essere un po' cinematografico come suo presidente, lei dice? Evidentemente sì, spende, ma si ferma davanti a delle piccolezze, secondo me. Beh, piccolezze neanche tanto, però Alberto mi perdoni, cioè il Napoli nell'ultima campagna acquisti ha speso molto, è comunque un work in progress perché è una squadra che è stata costruita, migliorata. Sì, sì, questo sì, possiamo dire che sarà forse il direttore sportivo che riesce a fare grossi colpi tipo come Cavani, Higuain eccetera, ma non riesce a comprare un terzino come si deve, uno stopper come si deve, un difensore come si deve. Ma già mi sembra un po' meglio dell'anno scorso, già mi sembra un po' meglio dell'anno scorso, anche difensivamente, cioè anche dal punto di vista degli interpreti difensivi il Napoli. E ultima cosa, io Benitez per me è un grandissimo allenatore per quello che ha fatto, però questa è la dimostrazione che gli allenatori stranieri in Italia hanno difficoltà. Lasciamo stare Garcia che fino a questo momento è andato bene, ma gli allenatori stranieri hanno difficoltà perché il campionato italiano è diverso da tutti gli altri campionati. Mourinho infatti ha fatto una fatica pazzesca. Ma Mourinho puntava molto sulla difesa però, o no? Questo sì. Il Benitez che viene qua non vuole puntare tutto su un problema difensivo. Noi abbiamo anche dei difensori, chiamiamoli tali, come Zuniga, come Mesto che si è infortunato, come lo stesso Maggio, come lo stesso Armel, che non sono difensori, non lo sanno fare. Ho capito, però Benitez è stato preso comunque per fare un certo tipo di gioco, si sa benissimo come gioca Benitez, peraltro è un allenatore che qualche risultato anche lui l'ha ottenuto, guardiamo al suo palmarès. Secondo me ci vuole un po' di pazienza e poi ci sono dei difetti che sono ineliminabili nel Napoli, in questo Napoli è una squadra che le dà e le prende. Il problema è che non ha grandissimi problemi a far gol, 31 non sono pochi, ha più problemi del previsto in fase difensiva, ma anche questo era secondo me da mettere nel conto. Dunque insomma, alla fine il Napoli sta facendo quello che era pensabile facesse, punto più punto meno. Torniamo domani anche per parlare di Juventus, che domani sera si gioca la vita a Istanbul, vita sportiva naturalmente, questo è chiaro. Franco Piantini, autore di questo programma, Fabio Cantadore in regia, ciao a tutti. Come la storia della nazionale non nazionale svizzera, è vera sta cosa? E oggi Vecchio ci ha smentito, un secondo fa. No, ha smentito, ci sono contrario. Che devo fare io? Metto l'ispettore, metto adesso Sherlock Holmes, metto a vedere se sono contrario.